farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di... Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Paranza, Parenza. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Oh, la battuta più comica di questo fine settimana, il fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle, caro David, la battuta più comica è venuta fuori da Silvio Berlusconi, ospite di Fazio, una noia mortale, una roba vecchia, stantia, senza nessun guizzo, una roba veramente noiosa, noiosissima, nessuna domanda importante, nessun picco. Qui, eh? No, ma tranne quando gli ha detto della barba, ma è Berlusconi che ha fatto lo show, sì, no? Sì, sì. Veramente l'uomo senza domande l'hanno ribattezzato su Twitter, su web, non senza ragione, devo dire la verità, ma falla una domanda, no, ma falla una domanda seria, una domanda importante, secca, fatti mandare a quel paese, fallo andare via, fallo incazzare, dai, su, signor Fazio, va bene che non sono interviste, quelle sono conversazioni, come dice lui, no, però, dai, falla una domanda, no, una, vabbè, comunque... La cosa, la battuta più comica però è venuta da Berlusconi, quando ha detto le mie televisioni non hanno mai fatto politica. Ora va bene tutto, a me non me ne è mai fregato un cazzo del conflitto di interesse, lo doveva risolvere la sinistra e non l'ha risolto, quello che volete. Però amico mio, Berlusconi, ma come fai a dire che le tue televisioni non hanno mai fatto politica? Ma ci ricordiamo tutti tantissime cose, noi ci siamo messi a ridere, ci siamo divertiti, perché siamo dei fottuti cinici. E dunque non ce ne frega niente se Fede fa la campagna elettorale per te, se ci sono i servizi fatti in un certo modo, se i titoli dei TG sono fatti così, così e così, lo sappiamo. Però non ci puoi venire a raccontare che le tue televisioni non hanno mai fatto politica, amico mio, perché è chiaro che non è così. Dai, su, noi siamo cinici, dei fottuti cinici, e lo sappiamo che hanno fatto politica e ci siamo divertiti come dei matti. Le mie televisioni sono televisioni che non hanno mai fatto politica e le spiego anche perché. No, la seconda non cosa, tanto aspetti. Per bontà, no, sì. Me lo lasci spiegare, perché rivolgendosi a tutto il pubblico, sì, da sinistra a destra, da destra a sinistra, non possono prendere posizione né per la destra né per la sinistra, se no diminuirebbero grandemente il loro ascolto. Sì. Sì, dai, su, soprassediamo di fronte a queste minchiate, dai, passiamo oltre. La barba, ce l'avete il pezzo della barba di Fazio? Ah no, aspetta, a proposito delle televisioni che non fanno politica, voglio ricordare l'amico Fede in una delle sue più grandi performance. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia, consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio, che l'ha vinta quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa, la gran parte dell'informazione radio-televisiva, e l'ha vinta anche contro molti che gli consigliavano di non fare questo passo. A proposito della frase precedente di Berlusconi, qui bisogna ringraziare la prontezza dell'amico Will Nonleggerlo, su Twitter. 800 24 00 24. Dove andiamo? Beh, ti devo dare una notizia. Ti ricordi gli immigrati che avevano chiesto il wifi in quell'albergo? Immigrati sì. Spesso clandestini, che vengono qui, alcuni profughi cercando l'asilo, eccetera, eccetera. I signori immigrati, tra parentesi, clandestini, che sono di stanza, per il momento clandestini che sono di stanza a Campiglia, in Toscana, si lamentano di nuovo. Sai che cosa dicono? Siccome sono le procedure lunghe per dare l'asilo politico, per dare per ottenere lo status di rifugiato, eccetera, eccetera, noi siamo annoiati con i tablet e le cuffie a bordo piscina. Beh, tutto il giorno stanno lì. Beh, certo, siamo annoiati con i tablet e con le cuffie a bordo piscina. Non ho capito, devono spaccare. Non ho capito. Aspetta, ci annoiamo perché stiamo vivendo lo stesso giorno da un anno e mezzo. Chiediamo solo che ci diano i documenti che abbiamo chiesto per poter essere liberi di realizzare i nostri sogni in Italia. Bellissimo. Ognuno di noi ha dei progetti, c'è chi vorrebbe tornare a studiare e chi cerca un lavoro. Oh. Qui, lontani dal centro del paese, siamo in trappola. Uno spaccato meraviglioso. Ma di gente volenterosa che ha voglia di lavorare anziché migliaia di fan con i tablet e le cuffie a bordo piscina. Si annoiano, piscina. Cioè anziché dirti si stiamo annoiano. Qui in vacanza. Questo è bellissimo, hai fatto bene a leggerlo, devi leggerlo in continuazione, tutta la puntata, perché smentisce quei signori della Lega Nord. È una presa per il culo. Questi vogliono lavorare. 35 euros by day, 35 euro al giorno, 35 da un anno e mezzo, 35. Si annoiano, vogliono lavorare, vogliono realizzare i loro sogni. Io non vogliono voglio stare aggiungere lì a grattarsi la pancia. Non voglio aggiungere, c'è gente che vive in macchina, per carità, questo lo dice la Lega, non voglio dire questo, però sono sempre 35 al giorno per un anno e mezzo, perché le procedure per ottenere lo status di rifugiato, l'asilo rifugiato, politico, sono lunghissime. Puoi fare anche opposizione e resti pagato, puoi fare anche ricorso, come sai, e resti pagato sempre dallo Stato. Fazio deve tagliarsi la barba, torniamo al Berlusca, vai. Posso iniziare con un consiglio da vecchio editore di televisione? Sì. Quando uno comincia a entrare nella maturità, come il signor Fazio, e vede tutte le mattine, guardandosi nello specchio, una barba grigia, deve avere il coraggio di tagliarsela. Lo so che lei sarebbe molto, ma molto più bello e passerebbe meglio nelle telecamere senza barba. Allora, vogliamo rimandare in onda, caro Parenzo, una frase che ha detto Giampiero Mughini qui, che ha fatto piuttosto rumore sul web, soprattutto qui alla Zanzara, credo venerdì scorso, quando ha detto, beh, lui sai che essendo uno di una certa età ha la pensione con un vecchio metodo retributivo che io considero assolutamente di privilegio rispetto ai giovani di oggi, eccetera, eccetera. Lui ha detto, chi mi dice che sono un privilegiato gli spacco, sentite. Io sono uno che, godendo di un sistema pensionistico basato sul retributivo, che io apparirei un privilegiato. Ma sei un privilegiato, io no? Gli spacco il culo a chi mi dice questa cosa, capisci? Perché mi ricordo quello che pagavo mese per mese. Perché sin dall'inizio ero, scusami, una punta del giornale in cui lavoravo, uno stipendio molto alto. No, ma e questo... quindi sai, su quello stipendio molto alto pagavo dei contributi molto alti e non vorrei che qualcuno venisse a rompermi i coglioni. Sono stato chiaro, sono stato troppo molto educato. Chiaro. Vorrei fare osservare nuovamente che nella cattolicissima Irlanda, dove peraltro non esiste ancora l'aborto legale, questo bisogna sottolinearlo, però è passato il referendum, come sapete, sulla legalizzazione, anzi sulle coppie gay nella Costituzione. Noi in Italia ancora ci stiamo arrovellando, forse da settembre inizierà una discussione alla Camera, ma non saranno matrimoni, saranno unioni e chissà quante altre cose succederanno, 4.000 emendamenti, 5.000 emendamenti, chissà se questa cosa qui verrà mai alla luce, no? Rimettiamo in onda una di noi sui vegani, una di noi. Bisogna avere rispetto per chi invece, io francamente quando c'ho un vegano a cena mi vorrei ammazzare, giuro, alle volte dico no, quindi non inviterai Teresa a cena a casa però, tua. I vegani sono, diciamoci, con tutto il rispetto, i vegetariani già di meno, i vegani, insomma, io non ci ho mai capito niente di quello che mangiate o non mangiate, siete l'ossessione dei poveri disgraziati che organizzano le cene. Però mi sembrano una forma ossessiva un po' patologica, francamente, come quelli che si fissano appunto adesso, no basta questo, faccio no, solo no, questo, no, bevo no. solo questo, mangio solo questo e rompono no, un po' le palle al mondo intero. Al Alba, una di noi, benvenuta nel club di quelli odiati dagli animalisti. Eccoci. No, però ti supplico, io sono un animalista. Ecco, questo. No, ma adesso non cominciamo subito a fare un passo indietro, sei un animalista. No, però questo non te lo permetto, perdonami. È proprio perché la prova del fatto che, diciamo, gli pseudo vegani sono dei grandissimi rompicoglioni è stata confermata dall'atteggiamento successivo. Io per tutta la puntata, e basta andarla a guardare o riguardare, è disponibile, e ci sono vari passaggi. Ho addirittura litigato con degli allevatori, ne ho mandato solo uno, ho detto a Veronesi che mi impegnerò, ed è tutta la settimana, tra l'altro, che io non mangio carne, perché sono stata inorridita da quello che ho visto. Vabbè, ma quelli sono gli allevamenti. Chiunque resterebbe inorridito da quella roba, dai, su. No, ascoltami, io ho passato una vita a raccattare animali e insieme ai miei genitori a portare, cioè sono assolutamente contro le violenze sugli animali, eccetera, eccetera. Vabbè, d'accordo. Civiltà. Ribadisco che i vegani, soprattutto quelli che questa settimana hanno dimostrato coi fatti, perché che è successo? Sono dei rompicoglioni. Che succede? Ti hanno minacciato su internet le solite cose. No, minacciato e dire poco. Cioè? Insulti gratuiti. Allora, innanzitutto di distinguiamo per chi non sa esattamente. No, ma dimmi innanzitutto quello che è successo, spiegami, no? Cosa è successo? Innanzitutto ho fatto una battuta della quale io non mi pento, perché le battute le faccio anche ai funerali, grazie a Dio. Si può no, ma va benissimo, infatti, ma aspetta, voglio capire quello che ti hanno scritto, scusami, e poi andiamo su un'altra cosa. Di tutto, Crociani, tu dovresti saperlo. Ma lo so, però dimmelo, che è successo? 500.000 al giorno. Appunto, dimmi che ti è successo. Se non lo sai. A te ti ha turbato un po'. A te ti scriveranno delle cose, a me me ne scrivono delle altre, non credo che a te ti. Ma minacce pure di morte, insulti, puttana. Ovvio, quello è l'ordine del giorno. Puttana quasi è un complimento, trovo. Addirittura. Però, anzi, continuate pure a chiamarmi puttana, io sono ben felice. No, ma no, noi no. Farmi la predica sulla storia degli animali che soffrono quando io sono la prima a esserne consapevole. Io soffro a vedere che la gente parla, puttana, si butta sul carro di qualsiasi affermazione estrapolata, come avete fatto anche un po' voi. No, ma non c'è nessuna estrapolazione. Qui, scusami, Alba, hai detto una cosa. Hai detto una cosa sui vegani, sull'ossessione. Sì, giusto. Ti sei beccata che cosa? Insulti e minacce di morte. Questa è la realtà. Però, aspetta un secondo. Era in particolare rivolta a una ragazza che aveva passato tre tipi di ossessione diversa e questa cosa non è mai stata collegata. E io, francamente, ho trovato dei vegani che non mangiano il miele perché c'è lo sfruttamento delle api. Non mangiano la pasta perché c'è dentro l'uovo, non mangiano la mozzarella, e allora, francamente, se non è una rottura di coglioni quella aver la cena, dopodiché io, quando faccio le cene, organizzo una cena per vegetariani e una cena per carnivori, e quindi ci siamo. Dire, e poi dopodiché vogliamo dire lo stesso che ci sono mille, anche quelli a dieta sono dei rompicoglioni, e io mi ribadisco, tutta la vita io rivendico il diritto di fare una battuta che non offende il mondo animale, ma semmai a ragion veduta scherza su un certo tipo di integralismo talebano e ossessivo. Ma tu lo sai che ci sono delle persone che considerano gli animali e gli uomini allo stesso livello? Io faccio parte no, di quelle no, persone. Aspetta, che esultano quando un cacciatore rimane ucciso. Toro, se è per quello mio padre esultava quando i toreri venivano incornati, quindi vengo da quella famiglia. Ma perché anche tu pensi che quando un torero venga incornato ci sta? Francamente, se lui si prende quel rischio, voglio dire, lui vuole cioè, fare sei contento? Tu sei contenta? Non sono contenta, non me ne può fregare di meno, perché io non vado a rompere le palle al toro. Se tu rompi le palle al toro, ti può accadere anche quello. Allora, ferma qui che c'è il traffico. Vai a cacciare e vieni cacciato altrettanto. Adesso ma no, ma non è la stessa cosa. Ma scusa, che mi rompono i coglioni. Allora, posso dirti? Detto tra di noi, questo è un argomento presente serio, perché stiamo dicendo che non me ne frega niente se muore uno che va a caccia. Onestamente, io non andrei mai a caccia, perché lo trovo cioè che andrebbe, la caccia abolita. Andrebbe abolita la caccia. Assolutamente sì. Dunque, se uno muore perché, che ne so, come è successo qualche. Se tu vai a sparare, puoi correre questo rischio. Con questo non voglio dire che sono contenta. Dopodiché, allora, ferma lì che abbiamo il traffico. Adesso torno. Fermo che c'è il traffico. Ferma. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Allora, siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci, con Alba Parietti, massacrata dai vegani in questa settimana, dopo quello che ha detto, dopo la battuta che ha fatto. E che rifarei, ripeto, 500 volte, anche perché io poi vorrei ricordare ai vegani che se loro sono così integralisti. Sì, ma scusa Alba, ti puoi togliere l'auricolare, perché sennò non sì, si capisce. Tesoro, hai ragione. Sennò veramente siamo messi male. Meglio, così prendo la multa. Sei perfetta, chi se ne frega se pigli la multa. Certo, la pago io. Allora, se vuoi te la pago io. Dopo. Non salire neanche su una macchina se hai sedili di pelle, non mettersi un paio di scarpe se per caso dicono che le api, per esempio io ho un'amica vegana che non mangia il miele perché c'è lo sfruttamento delle api. Ma sono ridicoli, allora, dai, sono ridicoli. Pensa quando ci sono dei prodotti made in China o in alcuni non paesi. Ti racconto un'altra cosa perché sono le 18:50 su quello che non dovrebbe fare una vegana, però lasciamo perdere, sono le 18:50, sono le 18:50 e non lo dico. Usare la carta igienica? No, sono le 18:50 e non lo voglio Dio cruciale. No, ma non lo dico. Infatti non lo dico. Signora Parietti, la prego. Cruciani, che tu ci parli sempre di te. No, ma siete voi che pronunciate la parola sesso, io non ho detto niente. Ma neanche in caserma fanno. Ma non ho detto nulla, ma siete voi che avete interpretato, io non ho detto niente. Ha già intuito di ma io non ho detto niente. Siete Parietti ha già intuito. All'alto dei miei 54 quasi, mi fate gli venite alla mia festa il 2 luglio, vi invito ufficialmente. Quanti anni fai? 54? 54 berrette. Mamma mia, 54. E vado fiera pure di quelle. Beh, certo, perché una donna che può dire la sua età. Dove la fai? Senti, ma ti metteresti mai con un vegano? Giovedì 2 luglio. Sì, si può fare. Dove la fai? Vegano? No, sinceramente no. Non ti metteresti con un vegano? Sarebbe un attimo. Sarebbe perché, guarda, io almeno voglio dire, se c'è una cosa che amo è veramente mangiare. Con un leghista, meglio un leghista o un vegano? E dipende dal leghista, dipende dal vegano. No, vabbè. Il vegano, ma se non mi rompe le palle durante una cena e non mi fa organizzare qualcosa di speciale per lui. Allora va bene anche il vegano. Vedi, io ho conosciuto dei leghisti che erano dei grandi signori, tra l'altro uno, non so se posso dirlo, era il direttore di una rete televisiva ed è veramente una delle persone più corrette e straordinarie che abbia conosciuto. Sì. Non condivido nulla di quello che dico, ma dice... Ma cioè, se Salvini fosse conquistasse l'Italia, per te sarebbe un problema? Certo. Sì, scapperesti? Ma guarda, se non sono scappata fino adesso, Che ne so, vuol dire che ho una grande resistenza. Senti, ma tu secondo me avresti intervistato Berlusconi meglio di Fazio. Questa la mia idea è questa. Cioè, Alba Peretti avrebbe intervistato Berlusca ieri meglio di Fazio senza domande, l'uomo senza domande, o no? Ah, perché ieri era senza domande, Fazio, perché non ho seguito. Io ho visto solo l'intervista di Madonna, ma lui... è stato un po' tipo Carla Bruni ieri, Fazio con Madonna, in che senso, come Carla Bruni? Carla Bruni, Madonna, lui ha un po', è straordinario Fazio, per carità, meraviglioso, sì, un grande professionista, però un po' ogni tanto si intimidisce, non lo so, si fa prendere un po' dalla... diciamo così, dai, fa conversazioni. Quante volte trovo più brava la tua ex fidanzata? La Lucarelli? Sì. Ma bisogna vedere nelle interviste face to face come si comporta. Però può darsi di sì. Hai può ragione, darsi. Vedi. Però può darsi. Però tu, però come tu. Lotta la signora Parietti con te. Signora Parietti, sa cosa ha detto l'altro giorno? Mentre commentava la tua performance straordinaria della signora Innocenzi, cosa il commento sul crociato ha detto: ah, bellissima la signora Parietti, quasi qua, quanto vorrei la signora. No, ma non ho detto questo, non è notte. Vero. Faccio parte di quel fiore che non cozzi, hai capito? Qua siamo al fiore. Ho la registrazione. Regia, possiamo far sentire che cosa ha proposto tagliato. In diretta per non cortesia, Regia Milano, grazie. Non l'abbiamo tagliato. Quando è la festa, signora Parietti? Il 2 luglio? Il 2 luglio, dove? 54. Ragazzi, adesso chi se ne frega? Aspetta un attimo, il paese ti piacciono le vecchie, ti faccio felice. Ottimo, pronto? questa potrei venire solo per questo, scusa. Potrei venire solo per questo, scusate, però il 2 paese... luglio, ma dove? Milano o Roma? A casa mia, come al solito. A Milano? Un po' in piscina, sì, finale. Milano. Andiamo a casa con la piscina pure. Certo, perché io ho lavorato, ho pagato le tasse fino all'ultimo centesimo. La sinistra in Italia. Perché non ospiti un profugo a casa tua? Scusami. Ma io veramente ne ho ospitati più di uno. Se per quello sono una delle poche che con l'ONU ogni anno versa e fa dei versamenti, ma non mi sembra molto elegante raccontarlo. No, ma che me frega dell'ONU? Un profugo di adesso. Un profugo di adesso. Perché no? Perché non a fare beneficenza? Perché non ospiti un profugo adesso? Chi se ne frega della beneficenza? Si dice che non l'abbia già ospitato. No, adesso, in questa ondata di profughi, prendine uno a casa tua. Non ti preoccupare, che io di profughi a casa mia ne ho ospitati tanti. Vado non esattamente però. Quelli che dici tu, ecco, ma gli uomini, ti dici, assicuro che di uomini, era come se fossero di uomini, dici. Perché non te ne prendi uno adesso di profugo? Tu potresti essere il prossimo profugo che ho. No, no, per carità, questo no, questo no. Se mi regali un'amica tua over 50, potrei anche, ma potrei anche qua, accettare. Ma una mia amica over, adesso hai capito, vuole fare pure sessista, razzista e sull'età. No, ma chi ti si piglia, Crociani? Se mi regali una tua amica come fossi un oggetto, una cosa. No, vabbè, ma ragazzi, tutte sono le battuta, femminite, dai. Oltre che i vegani. Mamma mia, ma non sai che ragioni come un politico. Questo femminismo, una volta dai. Un messaggio quando gli rifiutai delle avanze e mi dici, a chi? Ah, un politico, chi? Dicendogli che era veramente una merda, e gli disse: ma come fai a dirmi questa, cioè voglio dire, a permetterti di fare, lui si beccò tutto il mio pippone, dove io gli dicevo che era veramente agghiacciante il fatto che lui si fosse permesso di farmi delle avance, e lui come tutta risposta mi disse: va bene principessa, vorrà dire che mi presenterai una tua amica. Capito? Hai vabbè capito? Senti, tu allora uguale, ti richiamo alle 7:15 che ti devo chiedere ancora una cosa, sempre su questa cosa degli immigrati, perché te lo dovresti prendere un profugo, dovresti fare come tutti quelli che hanno, no, quelli che dicono adesso dobbiamo far arrivare i profughi, un profugo a casa Parietti sarebbe con la piscina, bellissimo, stupendo, col tablet davanti, fermi. Ormai è tutto degradato ormai. Smau ti aspetta a Bologna 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta La Zanzara. Il 2 luglio 54, Crociani. Se ti piacciono le vecchie ti faccio felice, pronto? Sì, ho capito, ma è lei che l'ha detto stavolta, non è che l'ho detto io, Parenzo. Cioè, adesso io non c'entro niente questa volta. Mamma cioè. Piero me tocca, tocca me Piero, diciamo in Veneto. No, ma che c'entra? Ma mamma Piero me tocca, tocca me Piero. No, lei, l'ha detto lei. Comunque, vabbè, ragazzi, la cosa più incredibile del mondo l'ho letta 2-3 giorni fa. Sulla carta d'identità elettorale del candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione Campania, si chiama Valeria Ciarambino, la signora Valeria Ciarambino. Sì. Allora, Il Mattino di Napoli pubblica, no, le schede elettorali, no, con la famosa carta d'identità, cioè una serie di cose, voto di maturità, laurea, libro preferito, reddito, proprietà, eccetera eccetera. Allora, innanzitutto stato civile. Ecco, tu cosa scriveresti se sei fidanzato? Scriveresti stato civile, che ne so, no? Nubile, no? Che è per gli uomini? Come si chiama? No, come no, si io dice? Ci ho scritto separato, ma voglio dire, ma non è quello. No, ma aspetta, la signora Ciarambino, la signora Ciarambino di 42 anni. Ma scrivere anche niente, scriverei. No, ma aspetta, sì, oppure niente. Fidanzata con Mimmo da pochi mesi. Ha scritto sulla carta. Ah, ti giuro. Cioè, l'ha detto ai signori del Mattino. Stato civile, cioè gli hanno chiesto: lei che cos'è? Fidanzata con Mimmo da pochi mesi. Beh, siamo al delirio, lo sai. No, è strepitosa, la trovo no, strepitosa. Ma siamo al delirio o no? No. Poi aspetta, animali domestici le hanno chiesto. Adoro i cani, ma in generale amo tutti gli animali. E fin qui, vabbè, d'accordo. Roba normale, lo direbbero tutti, perfino io, insomma, no? Una volta a Natale, ti giuro, una volta a Natale, ho salvato un capitone dal cenone natalizio. Una volta a Natale. Ho salvato un capitone dal cenone natalizio e l'ho allevato in una bacinella per mesi. Cioè, io lo so che tu sei incredulo, sei quasi. No, sono basito, silenziato, allora, tramortito. Io voglio dire una cosa: i poveri commensali, no? I signori commensali, parenti capitone. Probabilmente la sera di Natale, no? Il capitone. L'ha salvato. Preparato il capitone. Cioè, stavano preparando il capitone, il quale era ancora vivo, evidentemente, dentro una bacinella. Sì, certo. Dentro una bacinella. La signora Ciarambino ci viene a raccontare, perché io non ci posso credere, anzi, a questa cosa qua non ci credo. Devo dire la verità, non ci credo. Vede il capitone dentro la bacinella, messa lì, sai, no? In cucina, pronto per essere cucinato, magari il giorno, la mattina di Natale o la vigilia di Natale, nel pomeriggio. Sì, lì, cioè, tranquillo. Che insomma, che no, tranquillo, sta per essere. Non consapevole di essere trucidato. Che ne dica qualche animalista, no? Sì, no. Non consapevole di quello che sta per accadere. Lei invece, la signora Ciarambino, candidata a 5 Stelle alla presidenza della regione Campania, cioè colei che pare anche molto accreditata nei sondaggi, sfida De Luca, sfida il signor Caldoro, eccetera eccetera, che fa? Vede questo capitone dentro la bacinella, lo salva e lo alleva in una bacinella per mesi ma a casa tenerezza, sua. Ma che tenerezza. Io sono veramente, Cioè, io, nemmeno Alba Parietti ha mai fatto queste cose, ti giuro, nemmeno non Alba. Non ti ho sentito, per fortuna, pensa che culo, non ho sentito niente, allora, di quello che hai detto. No, allora, la signora dei 5 Stelle, candidata alla presidenza della regione Campania, io a questo punto direi anche Alba Parietti potrebbe candidarsi alla presidenza di una regione. Farebbe, ma perché? Ma anche tu dovresti, perché basta con questa cosa, Alba. Ti vogliamo in politica, basta con questa farsa che nessuno ti vuole, che il PD non ti vuole, che Renzi non ti vuole, che il PD ti schifa, eccetera. Beh, è così, d'accordo, è così, perché sei scomoda, perché dici quello che ti pare, non sei controllabile. Io sono, infatti, ti adoro per questo. Però di fronte a certe cose tu potresti fare politica molto meglio delle renzine, o sbaglio? Ma non lo so, stai dicendo tu, se ti piace. No, lo dico io. Beh, dillo so. Anche tu, dillo. Ma onestamente il discorso è quello che la politica è diventato, però siccome la politica è quello che dici tu, pronto? Mi sì, senti? Sì, ti sento, come no, come certo. No, certo. Siccome la politica è esattamente quello che dici tu. Cioè, i cortigiani. Bah, insomma, non è che voglio dire che siano tutti cortigiani, però... Insomma. Molti cortigiani, dunque non mi accettano perché non sono cortigiana, diciamo. No, ma non è vero che non mi accettano, ma chi la vuole fare? Cioè, voglio dire, io mi diverto tanto come allora, però l'anguilla, io stavo dicendo un'altra cosa che riguarda l'anguilla. Questa signora dei 5 Stelle. Capisco che tu parli dell'anguilla, ma sai che... Lo so che il paese ha altri problemi, lo so. No, allora... sai chi sono due accoltellati a Roma prima del derby? Ma sei zitto, ma lascia no, ecco, sì, questa roba qua è allucinante. Però non pazzesco. Ragazzi, non mi parlate di queste robe qui perché sono nervoso a parlare del derby. Allora, una volta. No, sei nervoso un corno, ma non diciamo niente su una questi volta... ultras. No, non dobbiamo dire niente. Una volta sugli a Natale. Ultras... Mi fai dire questa cosa, la signora Ciarambino? Una volta a Natale, dice lei, ho salvato un capitone dal cenone natalizio e l'ho allevato in una bacinella per mesi. Allora, io dico una cosa, io non ci credo a questa cosa. Tu hai mai salvato un capitone natalizio, Alba? No. No, questo no, ma questo perché no. Mi fanno un po' schifo. Adesso capisco che se la prenderanno con me tutti quelli che gli animali... Ti fanno schifo cosa? Pur sempre un animale. I capitoni non è che proprio mi piacciono tanto. Mi fanno un po' senso. Non li ho mai mangiati, ma non li ho neanche mai salvati. Ma come no, tanti ma... tanti uomini, d'altronde. Non li ho mai salvati, ma neanche frequentati. Per esempio? Perché per esempio non si dicono che sono, un serio, sono esempi da non fare. Sono esempi da non fare. Senti, ma te che sei di sinistra, per esempio il vitalizio a Occhetto che dice che deve sostentare i suoi figli disoccupati, ti fa un po' schifo questa cosa o no? Ma perché tu mi vuoi far inimicare tutte le categorie di tutte le parti, senza nessuna esclusa? Lasciami sopravvivere da qualche parte. Non vuoi rispondere sui vitalizi? Posso parlare bene dei polli d'allevamento, così perlomeno avrò un I polli d'allevamento. Andare. I polli d'allevamento è giusto che siano che siano allevati così per essere. Perlomeno avrò un posto dove andare, perché d'ora in avanti verrò schifata da tutte le categorie. I polli di allevamento è giusto che stiano in allevamento, perché bisogna mangiarseli i polli. È giusto mangiarsi i polli, capito? È giusto mangiarsi i polli. Vabbè, ti saluto, ciao. Gli unici polli che è bello mangiarsi sono certi uomini che si fanno spennare, guarda. Tu adori spennare gli uomini. No, guarda, non ho mai spennato nessuno e non sono mai stata spennata a mia volta. Ma dove sei? In un negozio a comprare qualcosa, mi sì, dicono? Sì, esattamente. Shopping, Shopping, beh. Shopping, sì. Shopping, prenditi un profugo a casa prima di fare shopping. Spendi quei soldi per un profugo a casa. Chi può fare queste battute? Sì, allora dimmi. Voglio dire, così come sì, dico che alle volte Busi mi fa le stesse battute che mi vengono fatte dai fake più orridi sui fake. Queste battute sono cose da Sant'Anche. Cioè, sei comunista, allora non so, vestiti con... Prendi un profugo a casa, dai, ti prego. Fai spiaggette con gli operai, proprio le cose tipiche. Prenditi un profugo a casa, così fai la tua bella figura. Pago le tasse ed regolarmente, da quando sono nata, non ho mai sgarrato mezza volta. Bene, ottimo. Non ho mai fatto del male a nessuno. Prendi un profugo a casa. I soldi che ho guadagnato senza darli ad altri. Guarda. Prendi un profugo a casa. Uomini soprattutto. Ciao Alba. Ciao, caro. Allora, Luca da Modena, vai Luca, 80024. Che c'è? Mi fai finire un attimo, dai. 80024. Mi hanno segnalato che esiste anche per i cani il cibo vegano. Sì, a voglia, come no? Ma esiste anche negli Stati Uniti? Ah, io non lo so. Esistono quelli che fanno, credo solo negli Stati Uniti, voglio sperare, quelli che fanno la chirurgia estetica ai cani. No. Sì, agli animali, come no? Quelli che portano il proprio cane a rifarsi gli occhi, a rifarsi. Non è vero. Ti giuro, io vorrei intervistarne uno, purtroppo in Italia, i matti che ci sono in America non esistono, altrimenti noi potremmo campare per 30 anni qui alla radio. Cioè, guadagnando montagne di soldi con i matti in America, guadagneremo 40 milioni di dollari l'anno con tutti i matti che ci sono. Luca da Modena. In America, scusa. Vabbè, ma qui c'è un problema di lingua, però. Luca, vai. Eccomi, a disposizione. Dimmi. Senti, allora, io ho chiamato perché penso che una buona idea sarebbe quella di istituire il ministero Ministero del Ripristino. In che senso, cioè, scusa, ecco, riportare in auge cose che anni fa funzionavano e che non si capisce perché sono state, diciamo, abolite. Faccio un esempio su tutti, il militare. No, il militare è giusto, è giusto che sia stato cassato, abolito il militare obbligatorio. Scusa, abbi pazienza, Luca. No, no, per carità, io l'ho fatto, sono contento che l'ho fatto, ma stavo considerando che da quando non c'è più, i diciottenni non si fanno più quelle visite mediche che potevano servire per diversi aspetti diagnostici e non solo. Vabbè, ma Luca, adesso il senso di questa telefonata qual è? Spiegami. No, per dire che secondo me il progresso va bene in tanti aspetti, specie quello tecnologico dove la però bisogna tornare in alcune cose, bisogna tornare al passato. Sì, per esempio, non so, boh, il topocalcio, l'illustrazione dell'otto settimana, dico, perché il progresso va bene, dicevo, in ambito medico, dove si aggiustano tante situazioni che fino a 10 anni fa portavano a condizioni di vita molto peggiori, se sì, non ma scusami, morte. Il totocalcio, amico mio, se c'è gente che non, se c'è gente che non gioca più perché ci sono altre cose, le scommesse, non è che uno lo può ripristinare quando la gente non gioca, amico mio. Vabbè, ciao. Saverio da Roma, dai, Saverio, vai. Prego. Dimmi, Saverio. Vai, Saverio, dimmi. Niente, io non so se ho sentito bene prima. Lei non so, non ricordo il nome perché attraverso la radio non sentivo bene. Amico mio. Lei più o meno faceva questa domanda, riguardava gli animali. Lei diceva, ma scusi, se un cacciatore si fa male, lei pensa che sia meglio, che sia peggio, oppure se il toro ingorna il torero, lei è contento o meno? Non so se ho capito bene. Vabbè, se ma Saverio, dimmi quello che pensi, senza stare a pensare a quello che si diceva prima in radio. Di cosa vuoi parlare, amico mio? Io ho sentito questa, volevo dire questo. Che cosa volevi dire? Il cacciatore o il torero, non è che glielo ordini il medico di fare quello. Dunque, che tu sei contento. Tu sei contento. Quindi io e tanti altri siamo contenti in questo senso. Quindi questo, cioè, per esempio, adesso è morto l'altro giorno un tizio che ha sparato un cinghiale, lo voleva ammazzare. Questo cinghiale si è un po' ribellato. Insomma, magari la mira di questo cacciatore non era eccezionale. E questo cinghiale l'ha ucciso, l'ha sbranato, l'ha divorato, l'ha distrutto. Cioè, gli ha spaccato tutto il corpo. Ma tu sei contento? Io gli posso portare, in Calabria è successo questo tempo fa, che in un Calabria, cacciatore di questi tempi si divertiva a sparare gli uccelletti che c'avevano in nido. E allora? È stato denunciato. E sai com'è finita? Com'è finita? Il cacciatore se l'ha risa perché dice, ma io non ci avevo fatto caso, non avevo visto che c'era allora? In nido, e quell'altro ha pagato l'avvocato e qualche altra cosa. Quindi gli sembra normale questo? Ecco che i media, i giornali e queste cose mica le mettono in risalto. Saverio, buona serata, ciao. Ma chi te si piglia, Crociani? Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Le fai tu, vabbè, dai, giornalista, dai, la radio la fai tu, sei tu il fenomeno, parli tu, ok. Somaro che non sei altro tu, se tu sei Somaro senza la coda. Allora, incredibile polemica di Alessandra Moretti, candidata del Partito Democratico, insomma del centro-sinistra più o meno, chiamiamolo così, alla Regione Veneto, contro i giornali che hanno pubblicato, interpretandola naturalmente, l'intervista di Parenzo alla stessa Moretti, uscita sul Corriere della Sera. Risentiamo un piccolo passaggio della Moretti, della Moretti con Parenzo. 35 euro a nucleo familiare. Beh, magari sa un anziano che vive da solo con una pensione minima, magari a questo punto e si fa aiutare. Non lo so, magari può anche accettarlo. Io non lo accetterei, nel senso che accoglierei indipendentemente da. Il senso mi sembra abbastanza chiaro, non è una proposta, dice semplicemente che un anziano arrotondare, lo dice Parenzo, ma lei, come dire, si accoda, potrebbe starci a prendere un immigrato in casa, un profugo in casa. Profugo, usiamo un profugo, sì, vabbè, prendendosi 35 euro oltre che il profugo, 35 euro più il profugo. Allora, io dico solo una cosa. Dico solo una cosa, che la Moretti, dopo che i giornali hanno detto, no, un anziano veneto potrebbe prendersi un immigrato per 35 euro al giorno, potrebbe arrotondare, eccetera, ovviamente hanno scritto come normale per i giornali, diciamo, di centrodestra, criticando questa presa di posizione della Moretti. Ma di questo abbiamo già parlato la scorsa settimana. La Moretti si è molto incazzata perché sui social, come sapete, c'è gente che ti vomita addosso di tutto, a prescindere da quello che dici. A prescindere da quello che dici. Questo è giusto. Hanno detto alla Moretti: sparati comunista di merda, luri di schifosi, mettili in casa tua gli stranieri, virgola, troia o altre cose ancora, gli extracomunitari falli ospitare dai tuoi genitori, stronza, prima o poi qualcuno ti ammazzerà. Ovviamente quelli che hanno scritto queste cose sono degli emeriti imbecilli, dei cretini. Qualcuno forse è perseguibile per legge, non lo so, farà la Moretti. Molto bene. Farà la Moretti, non mi interessa. Farà la Moretti, non mi interessa. Io so, no, a me non mi interessa perché parole di odio su internet ce ne sono ogni giorno. Deve finire. Ma non deve finire niente. Deve finire. Giorno e da tutte le parti. Deve finire. Sì, aspetta, fermo, il problema è un'altra. Il problema è che la Moretti sostiene che i giornali come io Libero, anche difesa, sì, ma non mi interessa, visto. Libero, il giornale, la Gabbia e persino gli autori di Crozza che hanno offerto del materiale a Crozza per pigliare per il culo la Moretti, sarebbero tutti insieme come dire i responsabili di questo attacco, di questo odio sul web. Amica mia Moretti, l'odio, gli insulti esistono a prescindere da una campagna che non esiste, perché le parole che hai pronunciato sono abbastanza chiare, nessuno le ha interpretate male. Poi si sa, i titoli no, sintetizzano. Quando tu dici sì, un anziano potrebbe prendere per 35 euro a caso un immigrato, dici quella roba lì. Non è né un programma elettorale, né vuoi obbligare un anziano a prendere un immigrato a casa, però l'hai detto, è inutile tirarsi indietro, lo hai detto. Quelli che ti insultano su web sono orrendi, sono persone orrende, ma non sono fomentate da Libero, dal giornale, dagli autori di Crozza, dalla Zanzara. Assolutamente no. Crozza. PD, Alessandro Moretti, gli anziani ospitino gli immigrati nelle loro case. Ma scusate, i pensionati che cazzo gli hanno fatto a quelli del PD? No, perché, scusate, prima gli tagliano la pensione illegittimamente, poi si rifiutano di restituirgliela e se ne escono con l'elemosina del bonus da 500 euro e alla fine infilano pure un profugo in casa. Ma poi ce lo vedete, un migrante che scappa dalla Nigeria in guerra, attraversa il deserto libico a piedi, sale su un barcone marcio, resta 6 mesi prigioniero in un centro di accoglienza a Lampedusa, poi alla fine si trova su un divano accanto a un 80enne di Treviso, avvolta in un plaid, a guardare la ghigliottina. Cioè, a dite piase, Carlo Conti, come color sei uguali. Devo dire, geniale qui Crozza, ed effettivamente immaginare un signore che viene dal Gambia o viene dalla Nigeria o viene, che ne so, dalla Libia, che magari sta bene, per carità, accanto a un anziano sul divano a vedere la televisione, è una situazione ovviamente che non si presenterà mai. Qualcuno lo ha fatto, ma sì, lo ha fatto andandosene da casa. Non è che gli anziani si mettono in casa i cosi, dai, su ragazzi, ma quale anziano al mondo si mette a casa un immigrato badante che non conosce? Ma è ma è normale. Ecco l'errore della destra becera. Ma che c'entra che non la destra? Ma è normale caso, che un immigrato non si prenderà l'errore. Mai quegli immigrati, attento alla parola chiave, sono immigrati certificati, cioè sono profughi certificati, hanno un certificati, cioè la prefettura li ha già selezionati, per usare una parola cara a Salvini e ai legaioli, li ha selezionati, sono stati visitati e sono in attesa di ricevere il cosiddetto permesso, perché sono profughi. Quindi sono stati anche identificati, ma fratello. Stai dicendo, ma perché, fratello, devi, ma perché sono, devi andare perché nel particolare, nel dettaglio? Il dettaglio è importante, non ci sarà perché mai... voi che siete il partito delle ruspe. Ma senti, io non sono nessuno, non mi rompere i coglioni. Il punto fondamentale è un altro, non mi rompere le balle. Il punto fondamentale è questo: non c'è anziano in Italia. E questo non è vero. Che si dici prende una cosa a casa, non vera. A casa un immigrato. A casa è un immigrato. È successo nel Veneto che non è quello di Bitonci. Vabbè, hai ragione. Non è quello di Filippo da Padova. Ma è normale che non si ripigliano, la gente non si fida. Vero, Filippo da Padova. La nonnina di 90 anni. No, la nonnina di 90 anni se n'è andata a casa sua a Padova e ha lasciato l'altra casa in gestione a un'associazione. Non dire cazzate. Filippo da Padova, dai, forza. Non dire cazzate, dai. Pronto? Dimmi. Ciao, io sono Filippo da Padova. Volevo fare dei rimorietti. sganciarmi alla trasmissione di venerdì scorso in cui il signor Parenzo, sì, che reputo un giornalista poco serio, sì, diceva di dare delle case ai Rom, di dobbiamo dargli integrali nella nostra... Sì, sì, sì, caro nostra... Filippo. Case popolari anche ai Rom, certo. Sì, se hanno diritto, se hanno diritto, se hanno diritto. Ma scusami, Parenzo, ma cosa ne pensiamo di Rom? Ma cosa ci sei? Cosa... Vorrei farti una domanda. Sì. I Rom, cosa fanno qui? E tu cosa servono fai? Alla e nostra Filippo, società? E a cosa serve Filippo? A cosa serve Filippo da Padova? Filippo, oltre Filippo, a chiamare la zanzara, va benissimo, lavora, già una funzione. Ma scusa, se Filippo, fammi dialogare. Se a Filippo dà fastidio, sì, il fatto, sì, Filippo, che diano le case ai Rom in deroga. E a me senza... dà fastidio Filippo da Padova. Guarda un po', Filippo da Padova, a cosa serve? A chiamare alle 19.42 la zanzara, per quanto mi riguarda, che va benissimo. Per sentire un padovano come te, ma cosa dire delle cazzate. Filippo da Padova ha svolto la sua funzione, ha telefonato alla radio. No, però scusami un attimo, Davide, se non mi stufate, manda la moglie a chiedere la carità, se ne sta seduto alla cosa, al tavolo, a bere, a mangiare, a fare niente. Cosa serve? Scusa, alla in che senso, Filippo? Non servono alla società, a che servono? Io li manderei alla casa sua. Casa sua, spesso all'Italia, al paese. Però al di là di questo, Filippo ha ragione, perché Filippo dice, scusa, se assegnano delle case ai Rom fuori dalle regole, non va bene. Beh sì, spesso vengono assegnate delle case in deroga alle regole, in quanto Rom sono state assegnate. Ma se gli danno una casa, a meno che lavorino, che facciano qualcosa, non fanno niente. Vanno solo a rubare. Infatti, la settimana scorsa ci sono venuti a trovare anche qui dietro a casa nostra. Perché? Hanno rubato a casa tua? Hanno rubato a casa tua? La casa dietro a casa mia. Sei sicuro che sono stati Rom? Sì, lo so già. Ha fatto le indagini, Filippo da Parma? Sì. Ha fatto indagini, no? Ma perché Parenzo li difende? Ma cosa ma non difendo niente, ma lei ha fatto indagini? Ma cosa difendi, cosa? Ma hai fatto indagini, Filippo da Padova? Il tenente Colombo qui ha fatto indagini? Lascia stare il tenente Colombo, che era un teleteam. Vabbè, ciao Filippo, ciao. Sei sceso di livello, ma stavo scherzando. La zanzara. Allora, siccome dicono che non è mai presente da nessuna parte, come ogni lunedì ho stabilito un appuntamento, Parenzo, di mia autorità. Ogni lunedì, finché me pare, Matteo Salvini alla zanzara, va bene? Ti piace come cosa, Parenzo? Beh, un'iniziativa editoriale. Beh, iniziativa mia, personalissima, siccome faccio il cazzo che voglio, invito. Ma noi facciamo anche i CD che diamo in allegato col Sole 24 Ore, con tutte le dichiarazioni di Salvini. Ma che c'entra i CD, scusa? Possiamo proporre su una questo sarebbe una... CD? Non so se il napoletano sarebbe d'accordo. Se siete in macchina e vi ascoltate il sabato e la domenica, ad esempio, il meglio della Ruspa. Beh, col Sole 24 Ore, stupendo, un CD. In allegato, al posto, guarda, aboliamo quel settimanale culturale meraviglioso, no? Quello della domenica, quello stupendo che io leggo tutte le volte, no? E invece di quello proponi tu che lo senti, allora, dico, di me, il nostro direttore. Sì, no, proponi non tanto. No, però la cosa sensazionale è che vi annuncio che Parenzo che ha cominciato oggi, oggi Parenzo Salvini ha cominciato a imitare il direttore del Sole 24 Ore napoletano. Vi do questo annuncio. Assolutamente. Questo smentisco. Parenzo chiedeva che maglietta hai, Matteo. Terni. C'erano un migliaio di persone in piazza Terni, fantastico, Terni. Fantastico. Ho postato su Facebook l'immagine di questa piazza stupenda con mamme e bambini. Ma c'hai pure la felpa? Hai la felpa? Certo. No, oggi fa un po' caldino per le felpe. Me l'ha regalata stamattina Faenza, la felpa. Però se fare un po' caldo preferisco le magliette. Oggi ho visitato... Ma c'erano i soliti tizi? Certo, oggi a Pesaro hanno lanciato pomodori e uova, che hanno preso tre anziani in testa, voglio dire, qual gesto di... Vabbè, niente di grave, alla fine, pomodori. Diciamo può far male, però. Può far male. Parenzo proponeva una grande iniziativa editoriale, allegare al Sole 24 Ore i CD con le tue frasi cult, diciamo. Non credo che il signor napoletano sarebbe d'accordo, caro Matteo, così io... Vediamo. Beh, insomma, sarebbe un'iniziativa editoriale... Cruciani, due punti, chiudiamo il Sole della domenica, quello culturale, posso fare questa dichiarazione? Sì, no? Sì, puoi farla tranquillamente, puoi farla. Va bene, allora, abbiamo Matteo Salvini, come avete sentito, come ogni lunedì, voglio subito chiedere a Salvini prima una domanda, cosa. Allora, lei Rom, quanto schifo fanno. No, aspetta, aspetta, fermo. No, i nomi non me ne frega niente. Allora. E neanche a me, guarda. Oh, benissimo. Me. Basta che paghino l'IMU e le bollette e poi facciano quello che vogliono. Beh, Parenzo, sarei d'accordo anche su questo, che devono pagare l'IMU e le bollette, o no? Certo, a canone agevolato, certo. Come a canone agevolato? A canone agevolato! Ma divento pazzo io! Divento pazzo, peggio di Salvini, divento pazzo. Come gli altri poveri, dai, andiamo avanti. Come gli altri poveri? Andiamo avanti. Comprano mete e Cruciani messi insieme. Alcuni di questi poveri. Poveri Rom. Parenzo, dai, poveri Rom. Beh, mi avete stufato tutti e ma due. Ma ogni volta avanti. Che vai ma nei campi, i carabinieri, quando si mettono in testa di fare una cosa, trovano le fortune più grandi. Ma avete stufato tutti e due. Andiamo avanti. Dai. Ok, voglio chiedere a Salvini una cosa. Se la Lega diventa lunedì il primo partito dopo il Partito Democratico, no? Sì. Tu che fai? Sei il nuovo. L'hai già detto, sarò l'anti-Renzi, eccetera, eccetera. Cioè, sei tu il naturale candidato per quello che sarà, non si sa che cosa sarà il centrodestra? No, il problema non è la persona, io posso essere utile o inutile. Il bello sarebbe il premiare il progetto della Lega. Cioè? Sull'Europa, sulle tasse. Se la Lega veramente prendesse i voti che i sondaggi dicono che prenderà, non solo in Veneto ma in Liguria, in Toscana, nelle Marche, in Umbria, in Puglia, dove c'è la lista. Vabbè, se pigliate un sacco di voti, che succede? È chiaro che il nostro programma diventa il programma del centrodestra, quello di Renzi, quindi cioè tutti si devono adeguare, dici? Beh, noi, se gli elettori così scelgono, mi sembra che Berlusconi e tutti gli altri dovrebbero tenerne conto. Per cui la leadership del centrodestra passerà attraverso sempre. Chi fa il leader è l'ultimo dei problemi. A me interessano le cose da fare. D'accordo. Poi, vabbè, il programma, tu dici, il programma della Lega diventa il punto di riferimento del centrodestra. Vabbè, d'accordo. Su tutti i temi, l'euro, eccetera, gli altri ne devono tenere conto. Cioè, un po' si devono adeguare, diciamo la verità. Cioè, Non penso sia più la stagione delle mezze misure, dei compromessi, eccetera, va bene. Un po' di là, però la leadership è importante, come sai, perché Renzi, vuol dire, vince perché c'è la leadership di Renzi. E dovrebbe essere decisa dai cittadini italiani di centrodestra con le primarie. Assolutamente sì. Ecco, per esempio, nel centrodestra si fa strada nel casino più generale, dico dentro Forza Italia, nel caos più assoluto, si fa strada un nome, che è un nome di una persona campana che si chiama Carfagna. Ti piacerebbe sfidare la Carfagna alle primarie? Sarebbe bello, Carfagna Salvini. Mi piacerebbe confrontarmi con chiunque, non conosco abbastanza l'onorevole Carfagna per darne un giudizio, non mi permetto di farlo, però sicuramente sarebbe bello. Sarebbe bello sentire Salvini. Pronto, Matteo? Pronto? Io ci sono, eccoci qua. Sarebbe bello? Sì. Che ci fossero tante proposte diverse. Non solo ma ti piacerebbe però con la una sfida nord-sud, Carfagna-Salvini, bellissimo. Ma non penso ci sia più la divisione nord-sud, perché produttori e mantenuti sono purtroppo divisi lungo lo stivale in questo momento. Però scusami, la Pascale, conosci la Pascale tu, no? Non ho mai avuto il piacere di incontrarla. Sai chi è? Sì. Sì, so chi è. Che certo, ruolo ha? Non ha grandissima simpatia nei miei confronti. Che ruolo ha? Ha ragione. È la compagna di Silvio Berlusconi. Ha qualche ruolo politico? Non penso e immagino di no. Però ha detto che tu dovresti chiedere scusa, cosa che peraltro in queste ore hai fatto. Perché per il famoso, vabbè, ma non è che l'abbiamo tirato fuori noi, è uscito fuori. Un uomo politico si porta appresso tutte le sue cose del passato, lo sai. Per carità di Dio. Ma sai quanti difetti ho io? Una cifra. Sai quanti errori ho fatto io? Una cifra. Ho sempre chiesto scuse. Qual è il tuo difetto principale? Il tuo difetto principale qual è? Lo lascio giudicare a voi. Ma no, che ne so, avrai un difetto, che ne so, ti riconosci un difetto? Ma guarda, la cosa che rimpiango è di essermi fermato a 5 esami dalla laurea. Esserti fermato a 5 esami. No, ma un difetto. È stata una sciocchezza. No, una sciocchezza, dice. Beh, io ho detto un difetto. Un errore, tornassi indietro farei di tutto studiando alle 3 di notte per arrivarci a questa benedetta laurea. Non che il titolo di studio faccia la persona, però visto che mi piaceva anche storia, avrei dato una soddisfazione a mamma e papà. Senti, ma la Pascale ha l'autorità per attaccarti su Napoli, secondo te? No. Cioè, no, qua? Però dica quello che vuole, non sto neanche a risponderle. Andresti in curva a Napoli per un come gesto di pacificazione? No, non sarebbe una cosa sicurissima, dici. Pronto? Pronto? Pronto? Ogni tanto perde a Terni, dov'è? Sai, a Terni, Terra Rossa. Sì, eccoci qua. Allora, andresti in curva a Napoli in un gesto di grande riconciliazione, la curva del Napoli? Salvini non ci sente. Vabbè ragazzi, via, dai. intanto Nicola da Pescara e poi torniamo con Salvini da Terni, vai Nicola. Sì, ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Ciao, al volo volevo commentare un attimo la sentenza Sgarbi, se ne è parlato poco. Quale sentenza? Non ho capito. Quella dei 60.000 euro. Sì, ma pare che tra l'altro quei soldi già siano stati dati, quella in cui disse ai magistrati assassini, dici? Esatto, quella lì. Sì, guarda, commentare le sentenze di Sgarbi, ci vorrebbe l'avvocato di Sgarbi come mio amico per capire se ha pagato prima, non ha pagato dopo, si è messo d'accordo con quei giudici. Adesso la sentenza è arrivata in Cassazione, ma credo che sia stata già composta prima. Sì, 60. Però è una cosa vergognosa che se ne parli poco. Allora, questa sentenza per me è una cosa gravissima. Vabbè, perché è gravissima? È gravissima perché Vittorio Sgarbi, io ricordo perfettamente quella puntata, c'era l'urlo di Munch dietro e Povera Patria di Battiato come sfondo musicale, disse una cosa importantissima, che i metodi utilizzati, lui non contestava Mani Pulite, ma i metodi utilizzati da questo manipolo di giudici ricordavano di memoria nazista. Blitz notturni. Vabbè, famiglia, ma chi se ne frega? È passata una vita, Nicola. Basta. Abbiamo di nuovo Salvini. Basta. Allora, Matteo. Scusate, ma ci sei o no? Perché se mi invito a vedere il Napoli ci vado volentieri, io adoro il calcio, non ci andrei di mia iniziativa per non provocare, ma già in passato feci scambio di maglia con tifosi del Napoli. Per cui se ti invitano a Napoli allo stadio ci vai? Ma niente ragazzi, non si sente, o si rimette a posto la linea oppure niente, dai, non possiamo stare a... Sembrano i miei collegamenti. Appunto. Sonia da Roma, dai Sonia. No, dottor Cruciani. Dimmi. Volevo un attimo commentare il fatto del cacciatore ucciso dal cinghiale. Sì. Io trovo, sono un'insegnante di scienze motorie, trovo che la persona comunque scende in campo, per lui è come scendere a fare sport, giusto? E deve assolutamente accettare i rischi che derivano da questo gesto, sportivo. Dicevo prima... Ma quale gesto sportivo? Scusa, aspetta, fermo, non c'è nessun gesto sportivo. Fermi tutti che c'è la pubblicità. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla Zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere. La Zanzara. I'm a real wild one. Un collegamento piuttosto difficoltoso questo lunedì con Matteo Salvini da Terni, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Fermo. Sono a Roma. Ma non eri a Terni, eri a Terni 20 minuti. Ma eri a Terni 20 minuti fa, che sei matto? Sì. Ho finito alle 6:30 a Terni. Adesso sono arrivato nella bellissima Roma. Ho visto che, a parte anche quello che ha detto la Pascale, pure una conduttrice televisiva, la Panella, ti ha detto, no? Ha insultato anche me. No, perché di solito è brava, professionale, simpatica. E invece che ha fatto? Vabbè, è una tristezza tornare a un coro da stadio che può essere sicuramente volgare, per cui ho già chiesto scusa per quelli che allo stadio. Però quella si è sentita coinvolto, tu dici ti aveva invitato altre mille volte. Ragazzi, ti aveva invitato altre mille volte? Adesso forse perché la Lega sta crescendo troppo nei sondaggi, quindi iniziano a fare a inventarsi di tutti i colori, però vabbè. Ma non ho capito, altre volte che ti aveva invitato non ti aveva detto niente, questo vuoi dire? Mai. Pronostico, calma un momento. Pronostico, in Toscana vai in doppia cifra o no? Pronostico. Penso di sì. Se non vai in doppia cifra, ti mangi due panini di kebab, amico mio? Due panini di kebab. Ma a me piace anche il kebab, non è che io debba fare un particolare sacrificio. Preferisco la versione greca, il gyros. Però non è un... Quando si tratta di mangiare, io adoro la cucina araba. Di mezzo mondo. Anche la cucina araba. Preferisco il risotto con l'osso buco, se devo scegliere. Vabbè, però. Buon kebab, con shish kebab, con buonissimo. Senti, ma è vero che avete denunciato la Chieng? Non mi risulta, io no. Qualcuno della Lega non ha denunciato la Chieng addirittura per diffamazione, perché ha detto della Lega. La Chieng che denuncia la Lega. Appunto, mi risulta invece anche il contrario, diciamo. No, io non ho mai denunciato la Chieng, la combatto politicamente, non per le accuse di razzismo. No, ma ormai ci ho fatto il calo. Guarda, oggi ero a Todi, dove hanno disegnato una svastica sulla sede della Lega Todi, perché saremmo addirittura nazisti. E sono dei poveretti quelli che parlano di nazismo, di fascismo, di razzismo. Sono dei poveretti. Però qualcuno ci ha detto che, a parte Ranieri, quello che raffigurò la Kieng come un orango, e che ha denunciato a sua volta la Kieng per una cosa detta da noi qui, però pare che, ma se lui ce la smentisce adesso non sarà Salvini. La Kieng era quella che voleva mettere fuori legge la Lega. Sì, no, ma appunto per questo, perché ha detto... Una che arriva a dire una roba del genere non è da denunciare, è da compatire, da coccolare, perché chi vuole mettere fuori legge milioni di cittadini italiani... No, ma come fai a mettere fuori legge la Lega? Dai, le stai dando della matta, praticamente. Ma no, della matta, dell'antidemocratica sicuramente. No, ma pare che qualcuno della Lega a livello ufficiale l'abbia denunciata per, perché Amato ha fatto bene. Mm. Boh, non lo so, pensavo che... A me danno più fastidio i lanciatori di sassi e di bombe carta, se devo essere onesto, perché se uno mi dà del razzista, non essendolo, non mi fa né caldo né freddo, ma se qualcuno giustamente si è sentito diffamato, ha fatto bene a denunciarla, visto che la signora denuncia chiunque apra bocca. Scusa un attimo, ma secondo te il 50, siccome pare che Forza Italia avrà un tracollo, è credibile quello che si dice, cioè che, non so, che il 50%, se non di più, degli elettori di Forza Italia, cioè ve li state prendendo uno per uno, voteranno per la Lega, è possibile? Sto trovando tanti, anche oggi li ho trovati nelle Marche. C'è cioè, tanti paese, elettori di Forza Italia che dicono non ho condiviso le scelte di Forza Italia, il sostegno al governo Monti. Per cui quanti elettori di Forza Italia secondo te potranno fare la Lega? Tanti. Come faccio a saperlo? No, ma tanti. Tanti, però la mia competizione non è con Berlusconi. La mia soddisfazione è trovare nelle piazze anche tanta gente che votava a sinistra. Però chiedete a loro perché, che vota Lega il 31 maggio, è questo che no, vabbè, che d'accordo, quelli di sinistra, ma... però anche prendere, gli elettori, anche prendere gli elettori a Berlusconi godi o no? Cioè, non è che non godi pure là. Cioè... No, sono contento perché viene rinforzato un progetto di vita. Oggi, ieri abbiamo lanciato il servizio civile obbligatorio per un anno, io ne sono straconvinto. No, questo no, ma che servizio civile obbligatorio? Abbiamo già dato da quel punto di vista, nessun obbligo, ragazzi, a 18 anni non è che si possono avere obblighi. Si è perso qualcosa, si è perso un po' di educazione, di rispetto, di sacrificio, di generosità. E che tu vuoi obbligare un 18enne a fare un anno di servizio obbligatorio? Sì, un servizio civile per il comune, per la parrocchia, per l'ospedale, per l'asilo, per la casa di riposo, magari a reimparare a convivere con il prossimo e a restituire un po' di principi che evidentemente... Ma questo lo fanno in Israele, perché è in guerra Israele, l'obbligo del servizio militare. Ma parlo di servizio militare, parlo di assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani, e sarebbe educativo per molti ragazzi che qualche valore l'hanno perso per strada. Io l'ho fatto un anno di militare. Ma sì, ma anch'io l'ho fatto, però ormai... A me mi segnalano che è vero che la Lega ha denunciato per... la Lega chi poi? La Lega chi? Bisogna vedere chi l'ha denunciato materialmente, ha denunciato la Kieng. Comunque poi vedremo. Comunque l'obbligo per me no. Ma un'altra cosa che ti voglio chiedere: veramente vorresti dare una medaglia a quelli che sparano nei rapinatori e non il processo? Tu hai fatto questo esempio, no? Hai detto bisognerebbe dare una medaglia a chi spara. Mamma mia. No, ma perché in Italia c'è l'assurdo che chi reagisce per legittima difesa passa i guai col passa i guai col processo. Ma lo definirà il processo, no? Ma lo definirà il tribunale. No. Uno che non fa finta di niente, che non si volta dall'altra parte. Neanche il processo. Rischia la sua vita per salvare la vita di qualcun altro, in quel caso di una commessa in mano a quattro rapinatori, non deve neanche essere sfiorato da un processo o da un risarcimento danni. E tu gli daresti una medaglia? Famiglia del povero morto. Io gli darei una bella pacca sulla spalla. Una pacca sulla spalla e via, senza processo, niente. No, ma scusa, ma qui stiamo stravolgendo lo stato di diritto completamente. A febbraio una legge per cancellare il reato di eccesso di legittima difesa. Ma come fai a definirlo prima? Eccesso di legittima difesa. Ma scusami, come fai? Un armato in una casa, in un negozio, in un ufficio, metti in conto che puoi uscirne steso. Non per cattiveria, io non ho il porto d'armi, mai avrò il porto d'armi. Però se qualcuno si difende, difende se stesso, la propria vita o i propri beni, fa bene. Ma come fai a definirlo prima? Guarda che incredibile. Senti, questo. No, ragazzi, se uno insiste, è minacciato con un'arma non viene processato, punto, basta. Ultima cosa da noi, ultima cosa, poi ti lascio. Allora è questa. Vai. Insiste la signora Efebal. Io devo dare una risposta alla signora Efebal. ho capito, ma mi ha chiamato 40 volte dopo l'ultima volta, mi ha detto... Io la ringrazio, ringrazio lei, ringrazio te perché siete andati in comune. Lo so, vuole lasciare... Non so se Parenzo l'ha già fatto. No, Parenzo non lo farà. farà, perché è contrario alle case chiuse, purtroppo. Però no. È il classico ipocrita che vuole la prostituzione in mezzo alla strada. Ma questo non è vero, questo non è vero, Giuseppe. Non ho mai detto che sono contrario alla casa chiusa. Beh, sì, sono a favore della multa sono contro lo sfruttamento delle prostitute. Ma quindi, tutti, nelle case chiuse, se c'è un controllo anche dello Stato, certamente saranno meno sfruttate che per strada. Su questo non c'è dubbio. Bravo, allora vai a firmare. Su questo non posso firmare perché è una proposta della Lega. Ma perché c'è? Perché è una proposta della Lega, non firmi. Io non posso. Ma scusa, ma sei veramente limitato? Io firmerei anche se fosse. Ah, sì, lo so. Elettore di sinistra. Lo so. Sei limitato. Sì, non lo so, sono ottuso. Anche se è una cosa intelligente, questa, l'unica. Ma veramente? Siccome ma sei veramente un poveraccio. Dai, che non ci crede a quello che dice. No, dai. Non ci crede. Non posso. Però allora, io ti ripeto, siccome lei insiste a dirmi, la signora Febal, io lascio il mio mestiere. Febal, ogni tanto ci scambiamo dei messaggi, come è normale. Qual è il problema di avere rapporti? Messaggi con Ainis, ad esempio. Ma figo, ma preferisco Febal tutta la vita. O con Ricolfi del Corriere della Sole. Ma perché preferisco scambiare i messaggi con Febal? Abbi pazienza. Sei vergognoso. Allora, io dico una cosa. Siccome questa signora vuole lasciare il mestiere di prostituta, lo vuole lasciare. Se viene candidata e facciamo sto regalo, dai, su Matteo, diciamolo. Faccio io, non si sa neanche quando si vota. Io la stimo e l'apprezzo per la battaglia che sta facendo con noi, ma non potete chiedermi chi è una nota federalista turca. Adesso, io lancio un erede della tradizione di Miglio, sai, la signora. Io abbraccio Mauro Corona, se ci sta ascoltando. Che fa Mauro Corona? Vabbè, non ho fatto niente, ma lo amo per i libri che scrive. Va bene, ciao, presto, ciao. Vi aspetto domani a Genova. No, sì, chi ci sta a Genova? Dobbiamo lavorare. Alle 18:30 in Piazza De Ferrari. Ma noi lavoriamo, ma che stai matto? 18:30 in Piazza De Ferrari a Genova. Ma di che parliamo? Ma su, dai. Allora, andiamo in provincia di Torino, Luigi, vai. Dimmi. Come stai? Bene, dimmi. Ciao. Guarda, innanzitutto saluti Linus, che è un tuo caro amico, e poi volevo dire a Farenzo se conosce l'acrostico di ROM. L'acronimo o l'acrostico? L'acronimo. Penso sia un acrostico, perché è un senso vero. Già hai detto subito la prima stupidaggine all'inizio con questi riferimenti ridicoli. Poi la seconda cosa è l'acrostico di ROM. Sì. Che vuol dire? Acrostico. L'acronimo di ROM, diciamo acronimo per semplificare. No, non è che per semplificare, acrostico. Perché l'acrostico non esiste, cioè amico mio, l'acrostico. Sì, esiste. Una parola di senso compiuto chiamasi acrostico. Comunque l'acrostico, significa rubano ostentatamente con le mani. Rubano ostentatamente con le mani. Ah, tu hai fatto ROM, sì. Rubano ostentatamente con le mani. E tu hai pensato questa cosa da settimane, hai composto l'8024. No, ho pensato mentre ero in attesa qua in apre diretta, ma visto che parlano sempre di Roma, vabbè. Va bene. Comunque, poi mi sembra una valutazione intelligente. Allora, io ho due cani stupendi. Sì. Uno è un bovaro del Bernese di nome Bovary. Sì. E uno è anche una femmina, sono tutte due femmine, uno è una Golden Retriever di nome Coda, e tengono tantissima compagnia ai miei genitori, e sono veramente come delle persone. Non ho detto che sono delle persone. Sono come delle persone, ma certamente hanno delle caratteristiche comuni all'essere umano, su questo non c'è dubbio. Ma è evidente, hanno gli occhi, hanno la bocca, sono sensibili, muoiono, vivono e muoiono, mangiano. Beh, su questo non c'è minimo dubbio, pensano. Caro Luigi. Probabilmente pensano, c'è tutta una letteratura su questa roba qua. Qual è il punto? Infatti. Piango. Non a caso, infatti, il premio Nobel della medicina del 1973 ha detto: non esiste patto che non sia stato spezzato, non esiste fedeltà che non sia stata tradita all'infuori di quella di un cane veramente fedele. E vabbè, va benissimo. Questo l'ha detto Conrad Lorenz. Vabbè. E io, visto allora... che origini indiane, il mio primo nome è Subhash, Ganesh, per esempio, è un dio elefante, giusto? Ha il corpo di umano e la testa di elefante, questa proboscide. E perché non fare un culto in Italia del dio Canis Lupus Familiaris? Questo è il nome latino. Non ho capito, scusa, io pure non ho capito, però adesso ci faremo spiegare meglio, dimmi. Sì, allora, a me piacerebbe tantissimo, visto che adoro i cani, visto che sono davvero come delle persone, avere dei seguaci. Sì. Ok? Tu avere dei seguaci. Per un culto del dio, visto che c'è il dio elefante, ci sono tanti dei per il culto del dio che? Il dio Dio, e non si può dire, vabbè, in Italia sembra tutto travisabile. Sì, no, ma ho capito. Dio, no, abbiamo capito. Sì, abbiamo capito. Dunque, una stupidaggine. Cioè, io mi capaccio. Ragazzi, pubblicità. Della idiozia di questa persona. Pubblicità. Perché idiota? Dice delle corbellerie, però va bene. Cioè, dice delle cose così fumose, più che altro incomprensibili. Ma idiote anche. No, incomprensibili. Idiote, per incomprensibili, ma idiote. Ah, voleva fare la battutina, dici, sul Dio, eccetera. Secondo no? me è idiota. Secondo me è proprio idiota. Beh, uno normale non può, no? Vabbè. Cruciani, brutto sciagurato. La Zanzara. Allora, eravamo con Sonia da Roma, che abbiamo lasciato un po' per strada. Buonasera di nuovo. Allora, dimmi, non ho capito niente prima, che cosa mi stavi dicendo? Sì, le stavo dicendo, come insegnante di scienze motorie, se io faccio danza, non mi aspetto di ricevere un pugno, a proposito del cacciatore ucciso dal cinghiale, ma se faccio box, è normale che io accetti il rischio derivante da quel gesto sportivo, perché è connaturato al gesto sportivo box che, misurandomi con un atleta, possa ricevere. Non ho capito il paragone, spiegami. Il paragone è questo, che il signore cacciatore di 70 anni che è andato nel Savonese a caccia, siccome si parla di sport, giusto? Se non sbaglio, chi è caccia andato sportiva. A caccia? Chi è andato? Scusi? Non ho chi capito? È andato a caccia? Il signore cacciatore che è stato ucciso dal cinghiale. No, ma non è andato a caccia. E c'era questo cinghiale che gli rompeva le balle nel suo non so dove. E lui a un certo punto si è rotto le scatole e gli ha sparato. E questo invece l'ha ammazzato, capito? Ma comunque io le dico che per quanto riguarda la caccia sportiva, chi viene ucciso durante la caccia logicamente accetta il gesto. Ma infatti nessuno dice nulla. Il problema è che c'è gente che esulta. Cioè, il problema è la gente che esulta. Io le posso dire, a parte l'esultare o meno, che dipende da, cioè, poi voglio dire, io dico che per me è una persona che uccide un animale in meno comunque. E dunque? E dunque sei contenta del fatto, se muore un cacciatore sei contenta? No, aspetti. Ma è questo stai dicendo? Io sto dicendo un'altra cosa. Io che gioisco della vita. Sono contenta che non ci sia qualcuno che me ne privi, perché io gioisco della vita di un animale. Sì, però ragazzi, facciamo intenderci, facciamo capisse, come si dice a Roma. Facciamo capisse, cara Sonia. Tu sei contenta se un cacciatore crepa, perché non ammazza più gli animali, chiaro? E lei la mette in questo modo, io la metto in un altro modo. Ok, poi arrivederci. Ho capito allora. Soluzione. Roberto da Lucca, vai Roberto. Pronto? Dimmi. Sono in linea? Sì, salve, vai. Cruciani, che grande piacere. Dai, dimmi. Volevo spezzare subito una lanza a favore di Parenzo, che lo vorrei avere sempre con me. Io vorrei sempre avere uno come Parenzo. Perché? Al mio fianco, perché non ho il coraggio che ha lui di dibattersi delle cose. Cioè io con uno così mi sentirei sicuro ovunque. Ovunque. Quindi in che senso? Scusami, in che senso? Dietro, spiegami. Accetto. Che si batte, che veramente crede nelle cose, cioè è bella questa cosa che ha, che se c'è un'ingiustizia, se c'è qualcosa che non va bene, lui la dice. Tante volte invece mi trovo. Secondo me lo stai prendendo per il culo. Comunque. No, secondo me. No. Vabbè, allora no, c'è un po' puzza, però. No, niente, questa era solo questa cosa. E poi niente, c'è umile da dire, non lo so, una sola, un paio di profughi, io dico la verità. Se avessi mia madre ha detto anche che sta preparando una dipendenza, un paio li vorrei anch'io. Un paio di profughi estratti al morso, alla ruberia, sì. Perché li vorrei? Porto con me magari. No, perché si va insieme in tre, no? Si divide lo stipendio, magari mi aiutano al lavoro, uno mi porta le fotocopie, uno mi fa una cosa e poi. Sì, come Robinson Crusoe, venerdì. Cioè, non ho capito, tu prenderesti come due migranti a casa, due profughi, così ti magari anche addestrati a rubare, no? Dividiamo lo stipendio, ce ne andiamo, cioè, anche per compagnia, per fratellanza, no? C'è questa cosa. Ma due profughi con qualche specializzazione che lavorano in qualche senso? No, ma era per dire di quelli. Di quelli? No, faccio un lavoro abbastanza faticoso, impegnativo. Nulla era. Ma non ho capito, stai scherzando oppure stai dicendo sul serio? Sta scherzando, di cosa paradossale? Di cosa si occupa lei? Ma per esempio anche il fatto. Scusa. No. Ragazzi, ma stasera che ci abbiamo con questi telefoni? Dai, vai, traffico. Traffico veloquilare. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta La Zanzara. questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrati. Allora ragazzi, succede una cosa abbastanza incredibile per farvi capire la follia della par condicio in Italia, no? C'è questa legge assurda che noi non rispettiamo nella maniera più assoluta, nel senso che ce ne fottiamo, ci danno delle indicazioni che io nemmeno leggo, mi mandano mail su mail, ma me ne fotto totalmente, dell'equilibrio, di avere, no, di fare il bilancino tra gli intervistati, me ne fotto totalmente. Questo è molto radicale, no, ma totalmente, no? Me ne fotto, cioè non tengo conto nella maniera più assoluta di come queste cose. Come Pannella quando disse: distribuiremo ora la droga sapendo che ci dovete arrestare ora, droga. Sì, ma non me ne frega niente, uguale, a me, non Pannella, me ne fotte nulla. Bravo. Allora, come sapete, anche se non ho mai parlato qui perché non mi piace di parlare di cose che non riguardano la radio, faccio il giudice a questo talent che si chiama RDS Academy. Allora, ho fatto intervistare in una puntata un politico, Antonio Razzi, da un ragazzo che si chiama Riccardo Russo. Allora, questo ragazzo, che è uno dei partecipanti a questo talent, no, talent che in realtà è un'accademia, ma insomma non stiamo lì a distinguere. Abbiamo fatto un'intervista quando non nemmeno si sapeva la data delle elezioni. È capitato che poi le elezioni sono state fissate per il 31 maggio e stasera dovrebbe andare in onda questa puntata qua. Con l'intervista a Razzi, che non può essere mandata in onda, cioè dobbiamo oscurare Razzi. No. Sì, cioè Berlusconi è andato da Fazio, programma di intrattenimento, nonostante la par condicio. Va benissimo, per carità, alla grande, non dico che non ci dovevo andare. Mandiamola noi l'intervista. No, ma la cosa più incredibile è questa. No, si può vedere sul sito di Sky. Però il punto è su quello di RDS. Il punto assurdo è che non si poteva mandare in onda questa roba qui con Razzi. Allora, sentiamo un pezzetto di questa intervista. Sono stato votato per lavorare. Bravo. E i cittadini hanno bisogno delle persone che lavorano. Giusto. E non che vengono a fare le vacanze romane. Le vacanze romane ci devi venire quando c'è festa, quando bravo, c'è. Perché c'è qualcuno che fa vacanze romane, dei parlamentari. Alcune volte mi trovo qualcuno, sì, e magari io mentalmente lo penso, sì, lo dico in dialetto abruzzese, dico: uè, e costui che fa qua? Mai tradita mia moglie. Che se chiusa lì ci andrebbe? No, ma almeno si fa per quelli che ci vogliono andare. Ah, ho capito, però. Io se sono... capita, lontano da occhi indiscreti, diciamo. Dai, no, lei è sposato, io lo so. Ma io sono 41 anni. 41 anni, sempre con la stessa? Sempre con la stessa. Mai tradita? No, perché si costa troppo le femmine. Abbiamo con noi Carlo Freccero, ciao Carlo! Ciao a voi ragazzi! Che serata drammatica per me questa sera, una serata drammatica, drammatica. Lo so, la Lazio non c'è più. Una serata drammatica, drammatica. Ti capisco, il 2-1 brucia! Ma guarda, sono veramente, sono basito, invece di fare una partita tutta in difesa, fare 0-0 e portare a casa il terzo posto. Qua è, Pioli è bravo, ma come tu sai, ha paura della vittoria. Ma non è che ha paura della... lasciamo perdere, che sennò mi viene, guarda... Senti, nell'intervista di Fazio a Berlusconi, come la giudichi tu? Ma io l'ho detto, cioè l'ho descritto appena a caldo, cioè mi è sembrato l'intervista, cioè un po' così sadica nei riguardi di... cioè gli anteponeva sempre sto Renzi, io trovo veramente, è per questo che sono qui in radio, che ci sia... tutto un fronte pro Renzi insopportabile. C'è pure Fazio dalla parte di Renzi, dici? Una cosa, e ma Renzi fa le cose, lei non la batte, e ma Renzi è più giovane, Renzi. Cioè, mi sembra un po' esagerato questo fatto. Tutti quanti hanno invece posto l'accento sul fatto che Fazio non è stato cattivo con Berlusconi. Sì. Io questa cosa è stato molto cattivo, perché in qualche modo invece... Cioè ha fatto vedere ormai che Berlusconi non ha più niente da dire in questo senso. Esattamente. Sadica. Cioè, però sadica, forse lo sai che ha ragione. Perché io ho iniziato la trasmissione dicendo che l'uomo senza domande, Fazio, che non fa domande. Però in realtà è vero. Bravo. Ha mostrato l'inutilità di Berlusconi in questo momento. È proprio veramente, posso dire, c'era un aspetto veramente così triste. Io poi difendo sempre chi perdenti, sai, sì, che io amo i perdenti, per sì, cui però, mi adoro, eccetera. Però, e avevo anche tenerezza nei suoi riguardi. Oltretutto poteva anche fare una cosa molto più leggera, quando le sorprendete la barba lei poteva dire: ma perché ha questo foglio in mano lei? Perché ha questo tic? Cioè giocarla su questo, sì, piano. Poteva giocarla tutto su quello, sì, sì, su quello. E vi ripeto, io poi trovo insopportabile che chiunque in questo momento sia intervistato deve in qualche modo poi riferirsi a Fazio, e lo dico con tono senza polemiche, ma pensa all'intervista che ha fatto l'amico, nostro amico Mentana, venerdì scorso a Renzi. Cioè sdraiata dove, pure quella dove la tortora ha esagerato un po', diciamo anche questo, si può parlare anche in qualche volta, fa la critica anche agli amici. Tortora si sarebbe rivoltato, si sarà rivoltato dalla... il padre. Ma sì, perché padre dici? Che c'entra? Beh, perché è renziana, che signora c'entra? Tortora, dai, è renziana, però se tu fai quel lavoro lì sia un po' più spiritosa, sia un po' più dipendente, ragazzi. Dai, poi oltretutto, ma non mi è sembrato un'intervista renziana. Beh, insomma, è abbastanza sdraiata. Ma è normale che sia così, non sono interviste. Ma no, è che se Renzi è un vincente, però altrimenti non ci va. Cosa dice? No, volevo dire. Parenzo, che è amico di Gaia, non sa distinguere tra l'amicizia. Io sono amico di Gaia. Ma non sto dicendo questo. Ma no, scusami, però, sto dicendo un'altra cosa diversa. Cioè, in questo momento, o gli mettevi uno che in contrapposizione. Ma lo devi fare tu. Lo devi fare tu. La vulcata è talmente ormai, come dire, il protagonista assoluto è lui, che anche è anche difficile arginarlo se non con l'ironia, volendo, perché non è che lo metti in discussione. Ma cosa hai trovato di è come il Berlusconi dei bei tempi, che tirava fuori i numeri, le cose, il contratto con gli italiani. Beh, appunto, fatto, beh, non fatto. Non era insopportabile. Ma per favore, Parenzo, ti prego, ritorni in te, ritorni ti prego, in te. Ma io ti cioè prego, in questo momento tu dici non c'è gente con la schiena dritta. Ma dai, assolutamente, una cosa vergognosa. A parte il fatto che Berlusconi ha detto delle cose anche molto vere, cioè tre governi non è del popolo, una cosa è la crisi che continua ad essere. E poi ricordatevi che Berlusconi, in questo paradosso, era un uomo, come dice lui, imprenditore, cioè di un'economia basata sulla produzione e non sulla finanza, e quindi è molto più, in qualche modo, più oppositore di questa situazione. Cercate di essere liberi. Freccero leggermente berlusconiano questo, in questa cosa. No, ma non è vedi che sei stupido, veramente. Berlusconiano nel senso che trovi delle cose positive, come hai sempre fatto, peraltro. Non è che sei bianco o nero, tu trovi. Ma io non quando sono una... bianco e nero, è ridicolo essere bianco e nero. Bianco e nero poi è il colore dei gobbi, quindi veramente lasciamo perdere. Ma tu farai il tifo per il Barcellona in finale? Beh, insomma, io amo il calcio, come tu sai. E dunque? Io non sono convinto comunque che arrivassi in finale, però di fronte al calcio. Cioè, di fronte al Barcellona, fare il tifo per il Barcellona, diciamo. Ma no, non riesco a avere passioni. Guardo, ormai si sento molto adulto, quando vince in qualche modo il gusto, la razionalità. Non te ne frega niente di chi vince in finale, basta che vince qualcuno che gioca bene, dai, ho capito. Bravo. Oh, come te lo allora, capito. Saviano dice che Berlusconi, che Renzi ormai è come quello del trono di spade, diciamo, no? Cioè, sì. Che intorno c'è, diciamo, i cortigiani, sì. E che ogni critica viene praticamente trattata. Sì, hai ragione, ha ragione Saviano? Ha ragione, sì, assolutamente. E guardate che è nefasto per lui, perché veramente è un coro unanime. Cioè, se tu trovi, ma addirittura la Rai sposta un programma, cioè, vedo delle cose, ma in tutte le televisioni, sì. È fastidioso. Cioè, è tu stonato. Dici, se Berlusconi avesse fatto le stesse cose, in parte anche... Le... Saremmo scesi in piazza, è una vergogna, ma per favore, ma il potere, cioè, cos'è che è bello oltretutto? Perché non funziona più nulla? Perché è bello fare sempre il contrastare a chi ha il potere. Se tu sei ancora così piegato così, non funziona più nulla, non funziona il talk, non funziona il programma. Ma infatti non ha manco bisogno di fare, secondo me, la riforma della RAI. Che gliene frega di fare la riforma della RAI? Sono già riformati. Si sono già allineati da soli, tu dici. No? Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Mi meraviglia, cioè, io te le dico, oltretutto sono meravigliato, perché... Cioè, io conosco Gaia Tordo, che è simpatica, sì. Finge almeno, metti qualcosa, non si poteva parlare, non si poteva parlare della Liguria, attenzione. Tu che voterai, non voti Liguria. Come tu? Si doveva parlare della Liguria? Io, sì, no, non si poteva, ho seguito attentamente il programma. Ma è rimasto incazzato sul fatto che ha visto un programma sdraiato su Renzi, giusto? Ma mi pare una critica ingenerosa, perché non era sdraiato. Oddio, ma perché devi... Perché dal punto di vista proprio tecnico, no? Voglio dire, le domande anche incalzate sono state fatte. Non è che gli potevi dire non è vero, Jobs Act. Mi sono sbagliato. Cioè, altra cosa. Invece, aspetta, scusa a Parenzo, chiedi scusa. Questa maleducazione che ho avuto nei riguardi dei nostri amici. Allora, la tua critica fermi è doppia. Fermi, cioè, con la pubblicità, fermi, e poi torniamo gli ultimi 5 minuti con Freccero. Fermo, 20:30, 800 24 00 24. Che serata drammatica per me. Drammatica. Siete proprio delle bestie. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. insopportabile, ma per favore Maretto, ti prego, ritorna in te, ritorna in te. Allora, ho altre due cose da chiedere a Carlo Freccero. La prima... Fammi dire una cosa a Carletto però prima. No, no, aspetta, no, non c'è bisogno. Perché sennò se io, guarda, ho trovato insopportabile. No, ma ragazzi, ma chi se ne frega? È successo venerdì scorso, dai. Ma su. Non quello, posso dire cosa trovo insopportabile? Quel video virale che c'è su internet di quella pagliacciata del signor Renzi in macchina con la signora Moretti. Vabbè, ma quello che c'entra, per quella è campagna elettorale. Quella che roba dire? Di campagna elettorale l'ho trovata. Ma di che una c'entra? Lui sta parlando di un'altra cosa. Ma quella inaudita. Ma quello fa la campagna elettorale come gli pare. Sì, ma non c'entra niente. Per me. Carlo sta parlando di un'altra cosa, che in parte è vera. Che in parte Carlo sta parlando di un'altra cosa. Che in parte è vera, del conformismo televisivo. Del conformismo televisivo, dai. Del conformismo televisivo. Il temporale, dimmi. Ma dove sei? Dove sei? Sono a Milano, dimmi. No, cosa dico, Carlo trova Marta, Milano, Marta. Carlo trova insopportabile il conformismo televisivo nei confronti di Renzi. Esattamente. E la riprova del fatto che il vostro programma, che non è conformista, ha una pubblicità di 15 minuti. Non so, è incredibile, quindi vuol dire che il mercato premia voi. Tutto e basta. Speriamo. E ho ragione. Senti un attimo, ma non trovi assurdo una cosa? Non trovi assurda una cosa? Che il Vaticano, il motivo per cui in Irlanda, adesso non c'entra niente con Renzi, eccetera, in Irlanda approvano le nozze gay Irlanda, nella Costituzione, l'Irlanda, la cattolica Irlanda. Sì. In Italia Renzi ha detto che forse da settembre ci sarà sta legge sull'unione gay. Sì. Il problema è sempre uno, ragazzi, chiariamoci, il Vaticano, il Vaticano. Il Vaticano. No, ti ripresento oltretutto una cosa che in Irlanda non potevano dire nulla perché c'è stato uno scandalo di pedofilia incredibile e quindi la Chiesa era ammutolita, la Chiesa non poteva parlare, non si è mai espressa causa lo scandalo terrificante che c'è stato. Qui è chiaro che... È pieno di scandali pure qua, è pieno di scandali pure qua. Però non agli alti livelli, diciamo, non agli altissimi livelli. Perché secondo te il fatto anche Renzi è un po' supino nei confronti del Vaticano, le cose sono cambiate, però anche Renzi... Boy Scout, come cos'è, poi tutti quanti. Ma sì, ma non è tanto. Posso dire una cosa? Sì. Lui guarda solamente, gli interessa solamente il potere, quindi è chiaro che il potere per il potere, il potere per il potere. Potere. Sì. Ma allora, a quale politico non interessa il potere, però? Perché questo sai. Vabbè, ma non è un politico, veramente. Cioè, in questo momento del vuoto ha avuto fortuna. Vabbè, comunque i conti li faremo fra poco. Ma se Salvini dovesse vincere le elezioni in Italia, non succederà mai. Ma tu che fai? Scappi? Che fai? No, guarda, è molto semplice. Ci stanno avvenendo due cose molto. Allora, in certi paesi mediterranei sta vincendo in qualche modo, sta prevalendo una posizione di sinistra, mentre nei paesi dell'Europa dell'Est la destra. Sì. Noi siamo un paese come l'Europa dell'Est, perché il ricordo di, diciamo così, di una destra molto autoritaria eccetera è lontano. Invece in Grecia e in Spagna, che era vicino, prevale la sinistra. Comunque la cosa che è curiosa è che bel pirla Varoufakis lì, dai, mica mi difenderai quel pirla di Varoufakis che sta facendo fallire la Grecia completamente. Vabbè, su, favore, dai. Guarda, vabbè, lasciamo pure perdere. Sarà mica quella la sinistra che ti piace, o i Podemos lì, gli indignados. Vabbè, ma quale indignados? Allora, dai. Carletto, ti voglio bene, ma Varoufakis! Ma non essere invidioso perché... naturalmente è più bello, è più giovane. Ma che me ne frega, ma sta facendo fallire un paese quello lì. Ma cosa dici che fallire? Ma fallisci tu, per favore, ma dai. È fallito a prescindere da Varoufakis. Quel grillino economista che registra le riunioni del Fondo Monetario. Ma di che stiamo parlando? Allora, ecco, tu sei proprio. Ti sei messo a difendere. Ma lui ormai sta con i banchieri, Parenzo. Ma no, e poi sta con l'editore Sole 24, mi fa piacere, viva Cruciani, e guarda che mi costa dirlo, però in questo momento, viva Cruciani! Ciao Carlo, ciao. 2-1. Cosa 2-1? No, zitto. Bravo. Vabbè ragazzi, dai, forza, Angela da Pavia, vai! Ciao a tutti, volevo intervenire riguardo i migranti. Volevo capire perché tu, Cruciani... cioè zittisci tutte le volte Parenzo, che è l'unico che dice qualcosa di intelligente a livello informativo sulla questione dei migranti, che innanzitutto non chiamo clandestini. Brava, perché esatto. I rifugiati, chi è in attesa di diciamo ottenere la posizione, diciamo, del rifugiato, sì, sono Angela, tutte va bene. Persone che sono senti un attimo. Totalmente sì, identificate. Va benissimo. E io ti dico questo perché lavoro per un'associazione che si occupa di queste cose. Ma va benissimo tutto, va benissimo. Non sono l'ignorantella come tutti gli Angela, altri ascoltatori. No, ma non dare dell'ignorante agli altri ascoltatori. Angela, la questione è molto semplice, molto chiara. Ignorante sicuro. Vengono in Italia delle persone, secondo me si potrebbe molto limitare l'arrivo di queste persone, ma questo è un altro discorso. Dopodiché molte di queste persone chiedono lo status di rifugiato. Non ti sento bene. Io ti sento benissimo invece. Molte di queste persone chiedono lo status di rifugiato. Questa procedura è lunghissima e non solo è lunghissima, e naturalmente ci mangiano associazioni, ci mangiano o lavorano, lavorano associazioni, eccetera, erogano eccetera. Erogano servizi. Sì, servizi, per carità. Uno, diciamo, si vede respinta la domanda e che succede? Succede che può fare anche ricorso, non si capisce perché, una volta che la domanda è stata respinta. Insomma, la procedura è lunghissima, questa è la realtà. Per colpa di quello che ho detto, è un problema di burocrazia, non è un come problema di rifugiato. Ma io non ho detto questo. Non si tratta di clandestini, clandestini sono altri, che poi vabbè, a parte il fatto che è un termine veramente allucinante, che secondo me non dovrebbe essere. Se uno è clandestino, se uno entra in Italia non ha diritto a entrare in Italia, è clandestino, punto e in basta. In ogni caso, chi è qua in attesa di in attesa comunque di ottenere un permesso, lo status di rifugiato, non viene qua per delinquere. Ma adesso sei arrivata tu che non viene qua per delinquere. Hai deciso tu che non viene in Italia per delinquere. Benissimo, l'ho deciso io, lo dice la legge. Chi arriva qui e viene ospitato, accolto negli alberghi, non è che è il primo pinco pallino qua. Allora, io dico solo una cosa, Angela, respingere è il più grande gesto umanitario che si possa fare. Spiros da Firenze, vai, Spiros, Firenze. Ciao Crisani. Dimmi. Ogni tanto il tuo viene avanti cretino, qualche cosa di giusto la dice, è presente cos'è viene avanti cretino, no? Sì, quella figura per cui gli si dà la mazzata tra capo e collo, gli dice vieni avanti cretino, e serve per chi sarebbe Parenzo, chi sarebbe, visto che lui spara solo cazzate, no? E insomma dicevo che mi ha ispirato cazzate oggi le spara lei, però. una proposta, no, stai zitto perché tu non mi conosci, non sai stai zitto sono, no stai dico. Cominciando mi stai marcando male stai marcando male stai zitto lo dici a casa tua stai marcando molto male stai a marcare male stai a marcare male fai quello che ti pare stai a marcare male stai marcando male fallo parlare non fare soldi stai zitto che ti faccio fare i soldi perché è una proposta editoriale che tu mi hai ispirato, no? Allora aspetta che quando zitto, tu hai detto che bisognerebbe raccogliere tutti i discorsi di Salvini, mettere un CD allegati la domenica, non so, al Sole 24 Ore, io proporrei di fare la stessa colazione delle tue stronzate, perché funzionerebbe in effetti molto. Poi servono, no, come riferimento, funzionerebbe, e lo chiamerei proprio così, vieni avanti cretino. Capito? Abbiamo segretino in CD giusta. Con tutte le puttanate di Parenzo. L'idiota al telefono, l'idiota in diretta. Ora ha detto una cosa intelligente. Ogni tanto strano. Dice qualcosa di giusto e che gliela lasci passare. Bella idea, così. L'idiota ha dato un'idea. Guarda, ogni tanto. Ma perché lo chiami idiota? Scusa, perché lo chiami? No, idiota. L'idiota, cioè identificato. Sì, ma perché? Lui. Perché? Non ho capito perché. L'idiota. Dal basso della mia professione, che è quella di insegnare anche marketing a livello universitario, il CD con le puttanate di Parenzo, dici? Il CD ma l'idiota ha dato un'idea. Il sole, ricordati, quando il sole della cultura è basso, anche i nani hanno l'aspetto dei giganti. Era per te, Radio Padania, rubrica Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. La ruspa nel campo rom porta i voti. Servi di Roma fuori. Prendi Salvini, metti la maglietta col nome di città. Fai un piccolo comizio sparando sui rom. Fioccheranno i voti nelle urne elettorali delle regionali. Sfiderai Berlusconi e governerai. Allora, una signora sicula interviene a Radio Padania. Senti. insieme a quella che tu usa della Boldrini, Laura. Laura Boldrini è rom, agli immigranti, portateli a casa che c'hai ville stratosferiche con le soldi del governo nostri. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Oggi è punto penale, manco cimitero, che tutti sti gente che stanno morendo e che le portano do mare, che di casa ricuoiono perché l'hanno e mangiano squale, perché abbiamo un governo fittoso. Pure Obama che sta facendo? Stai guardando con l'ISIS, con la guerra, fai schifo. Vergogna, Italia di merda, è a finire, che ci vuole la rivoluzione. Guida il popolo nella campagna. E poi per concludere il signor Varin, che dice che i pretoni sono ladri. Mancava, carico la 90. Caccia oltre il fiume. Ladri. Certo, ladri. Ladri, i pretoni che fanno finta di aiutare gli immigrati e si tengono i soldi. Ladri, ladri, ladri, signori. Tutto per la libertà. Franco da Latina, vai. Di Roma fuori. Pronto? Vai Franco, dimmi. Ciao Giuseppe, io volevo rispondere a quel signore che prima ha chiamato, voleva fare una divinità del cane, ti ricordi? Sì. Io mi devo scusare con Silvia perché io ho detto quel signore che voleva fare il dio cane, ma non volevo dire. Sì, ma guarda che non ci impressioni con ste cazzate, Franco. Non ci impressioni con questi giochi da quinta elementare. Povero imbecille. Mi è scappato. Allora, io siccome io faccio il giardiniere, no? Tu fai l'imbecille, secondo me, di professione, ma non. Vabbè, poi? E anche ma vai a fare il culo, Parenzo. Bravo. Vai a fare il culo. Vabbè, Franco, allora bestemmiatore volgare. Cazzo e parli. Stupido, allora, volgare, imbecille. Allora, mi vergogno per i tuoi parenti che hai telefonato. No? Questi adoratori dei cani, gli animalisti, che lo sai che fanno? Io vado a tagliare l'erba nei parchi dove vanno i bambini, no? Sì. Io ho visto un bambino che prende, lo sai come sono i bambini, no? Che vedono una cosa per terra e se la mettono in bocca. E allora? Perché non raccolgono la merda del cane? Perché non la raccolgono? Visto che no, molti la raccolgono, molti la raccolgono. No, nessuno la raccoglie. Nessuno la raccoglie. Alla ma fine. No, io vedo un sacco di persone nelle città che raccolgono la cacca alla dei cani. Alla Latina non la raccolgono perché non c'è controllo e non c'è nessuno. Vabbè, peggio per voi. Peggio per noi. È peggio per voi, il comune non fa rispettare il divieto che... appunto, io sono stato a lavorare a San Marino, dentro le aiole, non ci va, i cani non ci va, i parchi... Ma prenditela con tuo sindaco, vai, andiamo a Carlo, provincia di Frosinone, vai. Carlo. Buonasera. Dimmi, vai Carlo, forza. Ciao, io sono Carlo, ti ricordi quello dei froci là che... Ma non mi ricordo, chiamo un sacco di gente, vai Carlo. Degli autotrasportatori, vabbè. Io ti volevo dire che mi sono stufato di vedere questi extracomunitari fermi ai supermercati che chiedono i soldi. Non se ne può più. Ti strappano il carrello dalle mani. Ti strappano il carrello Far West. Sì, il carrello dalle mani ti strappano. Ma tu non te rendi basta, conto. Ne ho sentite troppe oggi. Chiudi aspetta, tutto, aspetta. No, che succede? Non aspetto più niente. Che succede davanti ai supermercati? Che succede? Ti strappano i carrelli dalle mani per poterlo riportare e per prendere le 2 euro, l'euro, e io sinceramente mi sono proprio stufato di questa situazione perché le stepore vecchiette si sono proprio, c'hanno paura di andare a fare spesa. Le vecchiette hanno paura di andare a fare la spesa? Sì. Ma sì, da qualche parte sarà così, ma non in tutti i supermercati d'Italia, caro Carlo, Cioè non è che in tutti i supermercati c'è il terrore delle vecchiette di andare a fare la spesa. Poi io mi sono stufato di una cosa, quando sono passato un camion, molti extracomunitari fanno il mio mestiere, vedi solo la tendiera, non se ne può più. Vedi solo? La tendiera. Perché? Non ho capito. Perché sono neri e si vede solo la tendiera. Ah, vedi solo la dentiera. Ma che te frega a te se una... Manco i camion possono guidare. Ma no, perché vede, una dentiera non può guidare un camion. Una dentiera non può guidare il camion. Ma perché io mi spieghi? Ragazzi, perché sono basito. Io non ce la faccio più neanche a quest'ora. Guarda, chiudi. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Che non ce la faccio più, io non vi sopporto. È un programma brutto, è brutto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sì, ma dai, fatti bravi, fatti bravi, fatti bravi, fatti bravi. Radio 24. La passione si sente.